vite indecenti. Mi chiesero, posso chiamarti padre? Perché io un padre non ce l'ho. Mi chiesero, posso chiamarti padre? Perché io un padre non ce l'ho. Fretta avete avuto a diventare grandi senza i consigli suoi, perché un brutto giorno lui se n'è andato via, pensava solo a bere ma non ai figli suoi. Mi chiesero, posso chiamarti padre? Perché io un padre non ce l'ho. Mi chiesero, posso chiamarti padre? Perché io un padre non ce l'ho. Padre!